Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Bentornati e buon sabato sera a tutti qui dalle frequenze di Radio Wombat. Come ogni sabato sera, anzi come ogni sabato sera, ogni due su Radio Wombat torna Tonight Alive. E se avete seguito la puntata precedente, vi avevo già anticipato che questa sera ci sarà la seconda parte di quella di due settimane fa, ovvero continueremo a sviscerare un periodo fondamentale tra virgolette per la musica di un certo periodo, di fine anni 80 e inizio anni 90, ovvero continueremo a parlare della, della cosiddetta seconda estate dell'amore, dopo la prima famosissima del 67, del 68, andiamo 20 anni più tardi e la seconda Summer of Love è quella tra Ibiza e l'Inghilterra del 1988. E dopo aver scoperto e sviscerato due settimane fa come tutto è iniziato questa Summer of Love, questa Acid House da Ibiza, e stasera andremo a vedere poi come è esplosa, come quando poi è ritornata in Inghilterra dalle terre di Ibiza, è esplosa in tutta una serie di generi musicali che influenzeranno buona parte della musica di fine anni 80 e fino a metà degli anni 90. La sigla che abbiamo appena ascoltato, non potevo che scegliere questa. Li avevo già fatti ascoltare nella puntata precedente, ma stavolta si meritano con la loro People Hold On, cantata da Lisa Stansfield. I Colcat si meritano proprio la sigla della puntata di stasera. Come già precedentemente detto, i Colcat sono un gruppo fondamentale della fine degli anni 80, dei pionieri della sampledelia, come si suol dire, del campionamento. Matt Black e Jonathan Moore sono stati veramente due pionieri dei sample, diciamo, per la musica pop in senso più ampio del termine. Prendevano appunto il loro stile, era appunto questo cut up, questi sample presi dai generi musicali più disparati, dall'hip hop, dal soul, dal funk, proprio anche da discorsi di personaggi, come abbiamo sentito nella Paid in Full di due settimane fa. E appunto, essendo la seconda puntata, facciamo un po' il riassunto della puntata precedente, come si fa sia per i telefilm che per i romanzi a puntate. Tutto si genera a metà degli anni 80, quando Alfredo Fiorito e Leo Mas fanno i loro set all'Amnesia di Ibiza, e in quella atmosfera balearica e sognante, tre ragazzi londinesi, tre DJ londinesi andranno a festeggiare il 24esimo compleanno di uno di loro, esattamente di Paul Oakenfold, e rimangono letteralmente folgorati dall'atmosfera dell'isola e dalla selezione musicale appunto di Alfredo e di Leo Mas. E una volta tornati poi in terra d'Albione, ricercheranno come dei maniaci i pezzi che suonavano Alfredo e Leo Mas ad Ibiza, e li porteranno in Inghilterra. E allora si può dire che esploderà l'era dell'acid house in Inghilterra. Infatti Paul Oakenfold fonderà il Future e poi lo Spectrum a Londra, Danny Rampling fonderà il leggendario Shum, da cui tra l'altro l'acid house prenderà il logo. Infatti il famoso smile, la faccina gialla con il sorriso, era il logo dello Shum di Danny Rampling. E Nicky Holloway fonderà poi il Trip. E appunto, con la fondazione di queste tre discoteche esplode definitivamente l'acid house in Inghilterra nel 1988. E sì, tutti questi club erano a Londra, ma uno dei luoghi che risentirà più dell'acid house sarà sicuramente in quegli anni Manchester, che infatti proprio in quegli anni lì diventerà Madchester, e con un'etichetta come la Factory Records, che aveva nei suoi ranghi gruppi come New Order, gli Happy Mondays e gli Stone Roses, solo per citare i più famosi. La Factory Records a Manchester fonderà il proprio club chiamandolo The Hacienda, e questo club quasi da subito diventerà un luogo di culto per la nuova esplosione dell'acid house. Infatti proprio all'Hacienda un DJ come Mike Pickering diffonderà il verbo acid house in tutto il nord dell'Inghilterra. Mike Pickering assolutamente fondamentale in quegli anni, con la sua serata nude all'Hacienda, che poi si trasformerà in hot, e poi sul finire alla metà degli anni 90 la serata si chiamerà Shine. Però appunto è proprio in queste serate che Pickering diffonderà il verbo dell'acid house. E Pickering, appunto essendo proprio uno dentro alla Factory Records, si dice che ha fatto firmare per la Factory gli Happy Mondays, e tra l'altro sempre attraverso la Factory ha collaborato anche con gruppi come i Quango Quango o gli M People, tra l'altro suonando anche il sassofono e facendo i cori. E come già appunto precedentemente detto nella puntata di 2 settimane fa, l'acid house iniziava a diventare un vero genere di culto dell'underground, che poi invaderà tutti i campi della musica giovanile di quella fine degli anni 80, diventando un hype. Nasceranno tutti intorno tutta una serie, appunto come già visto, di club, ma anche delle fanzine assolutamente amatoriali dedicate appunto al nuovo genere musicale. E la fanzine principe dell'acid house è sicuramente la Junior Boy Zone, fondata da quelle due menti geniali di Andrew Weatherall e di Terry Farley, e che come vedremo più avanti saranno veramente una costante della puntata di oggi. E il primo pezzo, anzi il secondo non contando la sigla, che volevo farvi ascoltare stasera è un pezzo degli S-Express, che è appunto una formazione proprio di quegli anni, formata dal DJ londinese Mark Moore, con il supporto di ingegneri del suono come Mark McGuire, Pascal Gabriel e James Reynolds. Il loro più grande successo è stato appunto il pezzo di debutto dell'88, Theme from the S-Express, che è veramente uno Sputnik sampledelico che compatta veramente una quantità incredibile di sample di musica di quegli anni, ma anche degli anni passati. Appunto campioneranno Ross Royce, Gil Scott Heron, gli Yazoo, Alfredo Della Fè, per dire i primi. E quel Theme from S-Express è veramente uno dei grandi classici dell'acid house di quel 1988. Poi continueranno le loro produzioni fino all'inizio degli anni 90, collaborando veramente con dei pezzi da 90, come alla fine degli anni 80 con Billy Ray Martin per la loro Hey Music Lover, ma dobbiamo sicuramente ricordare appunto il singolo del 1989, Hey Music Lover, che ha due incredibili remix, niente po' di meno che uno di Philip Glass, il Glass Cut appunto di Philip Glass, musicista di classica contemporanea, niente proprio di meno che, e anche sempre dello stesso pezzo, il Red Giant Mix del boss della Mute Records, Daniel Miller. Poi appunto collaboreranno anche per altri remix con Andrew Weatherall negli anni successivi per la sua The 8 Out Mix, e anche sul finale di carriera all'inizio degli anni 90 l'ultimo album degli S-Express vedrà la collaborazione del discepolo di Derrick May, Carl Craig, che curerà la produzione appunto del loro ultimo album. Possiamo sicuramente ricordare da quest'ultimo album, con la collaborazione di Carl Craig, la Nothing to Lose, che è veramente una schiuma di funky su break, super wawa, che è l'ultimo Static Strike degli S-Express. Però appunto, per introdurli stasera, non potevo che farvi sentire il loro pezzo più famoso, appunto Theme from the S-Express, e secondo me l'avete anche già sentita, famosissima, qui a Tonight Alive, Radio Wombat. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Countdown is progressing. Uno, dos, tres, cuatro. questi erano gli Essex Press con il film From Essex Press del 1988, proprio l'inizio dell'estate dell'amore. E per vedere appunto come quest'estate dell'amore influenzerà anche tanti altri ambiti musicali oltre a quello dance, cioè rimanendo sempre in ambito dance perché ce li portano inevitabilmente dentro, il prossimo gruppo che andremo a sentire sono gli A.R. Kane, che sono un gruppo fondato da Rudy Tambala e dal polistrumentista Alex Aiuli, che tra l'altro è un progetto che nasce a metà degli anni Ottanta. E i due, Tambala e Aiuli, tra l'altro poi collaboreranno anche nel gruppo Mars, che poi andrà a incidere la leggendaria Pump Up the Volume, che vi anticipo troveremo poi, anzi che abbiamo già ascoltato, scusate, nella puntata precedente. E A.R. Kane erano due di questo supergruppo dei Mars, però il loro disco d'esordio è 69 dell'88, ma ci andremo a sentire un grandissimo classico della Summer of Love, targato 1989, appunto degli A.R. Kane. Andremo a sentirci la loro classicissima A Love from Outer Space, che è proprio un'estatica piano house in chiave balearic, un vero ponte costruito tra Ibiza e l'Inghilterra. E questi sono gli A.R. Kane con A Love from Outer Space, 1989, Tonight Alive, Radio Wombat. Yeah. E questi erano gli Arcane con la loro A Love from Other Space 1989. E prima di essere linciato, come sempre ricordo tutti i nostri contatti di Radio Wombat per mettervi in contatto con noi e stare sempre sul pezzo. Ovviamente il sito, che rimane sempre wombat.noblogs.org, la nostra frequenza in onde medie per la zona di Firenze sul vostro autoradio in onde medie sulla frequenza 1359 1359 per l'area di Firenze, e poi la nostra mail, che è sempre postawombat@insiberia.net, i nostri canali social con twitter.com/radiowombatfi e il nostro canale Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze. E il prossimo pezzo che volevo farvi sentire è un altro pezzo che dimostra l'influenza di questo nuovo genere musicale sui gruppi già esistenti, ed in questo caso ci andremo a sentire un pezzo degli A Certain Ratio, che è un gruppo cardine, direi, dell'ondata post-punk inglese, che si erano formati nella fine degli anni 70, anzi all'inizio degli anni 80, sull'onda lunga dei Joy Division. Il loro era proprio un post-punk estremamente venato di funk bianco, ma con tantissime influenze dentro, anche influenze industrial, dance, disco, ma che li facevano stare insieme anche con forti influenze dub. E appunto i primi album, quelli dell'inizio degli anni 80, sono in puro stile post-punk, appunto, come stavo dicendo, questo funk bianchissimo che però appunto deviava dal classico post-punk del periodo e li rendeva abbastanza unici. Ma anche loro rimasero folgorati sulla via di Damasco di quel finale degli anni 80 e furono completamente travolti dall'ondata Acid House, e con i loro due dischi rispettivamente dell'89 e del 1990, editi sulla A&M, i primi al di fuori della leggendaria Factory Records, appunto, etichetta simbolo del post-punk, ma anche della prima Acid House, come abbiamo visto. Nell'89 incideranno in puro stile balearico e Acid House, Good Together, e il successivo ACR MCR del 1990. E dal Good Together ci andremo ad ascoltare quello che è un po' il manifesto della band alla nuova droga che aveva invaso e generato questo nuovo genere, ovvero l'MDMA, MD per gli amici. E questo loro pezzo si chiama The Big E, ovviamente in onore dell'ecstasy, e questi sono gli A Certain Ratio con The Big E, 1989, Tonight Alive, Radio Wombat. Walk right into better days. If you could Questa era The Big E degli A Certain Ratio. E con il prossimo pezzo, tra l'altro dei Saint-Étienne, gruppo formato nel 1990 da due giornalisti musicali, ovvero Bob Stanley e Pete Wiggs, con l'aiuto di Sarah Cracknell. Come mai ci andiamo a sentire questo pezzo dei Saint-Étienne, che poi sì, è un loro pezzo, però ci andiamo a sentire il primo lavoro di Andrew Weatherall. Come già vi avevo anticipato, sarà una costante della puntata, perché Andrew Weatherall remixa appunto questa cover di Neil Young dei Saint-Étienne, e viene fuori proprio un inno balearico all'ennesima potenza. Però chi era Andrew Weatherall? Appunto, figura fondamentale della puntata di stasera, introduciamolo. Weatherall era un DJ, un prime mover delle serate londinesi di quegli anni, ed è stato forse uno dei primi, insieme appunto ai quattro ragazzetti inglesi a Pickering dell'azienda, a credere in questo nuovo genere musicale, a abbracciarlo e a portarlo in tutto il resto dell'Inghilterra. Infatti inizialmente si connota con l'acid house, fondando, come già precedentemente detto, la leggendaria fanzine Junior Boyzone insieme a Terry Farley, a Simon Eckel e a Steve Meyers. E questa fanzine parlava sì di musica, ma anche di moda, di dischi, di calcio e tutto quello che un po' ci girava intorno. Weatherall era anche inoltre un critico musicale, un giornalista musicale freelance che scriveva su varie testate inglesi di quegli anni. E la carriera di DJ Acid House di Weatherall iniziò il giorno in cui incontrò ad un party Danny Rampling, e mentre appunto questi suonava alla Chapel Market a Islington, Rampling sentì suonare Andrew Weatherall e, colpito dal suo stile, lo invitò subito al suo club, allo Shum a Londra. E sia Terry Farley che Andrew Weatherall diventarono DJ ospiti quasi abituali dello Shum di Danny Rampling, suonando nella saletta al piano di sopra, ma anche intuendo lo stile subito li invitò a Londra al suo Spectrum, anche Paul Oakenfold e anche Nicky Holloway al suo Trip. Insomma, entrarono subito nel giro delle discoteche londinesi dell'acid house dopo che avevano fatto ascoltare il loro stile. E visto il successo dalla fanzine, crearono anche una loro propria etichetta discografica con il nome della fanzine, la Boyzone Recordings. E poi, tra l'altro, faranno uscire diversi leggendari dischi. E in quella fase iniziale di carriera, Andrew Weatherall e Terry Farley, insieme a un altro DJ come Pete Heller, con cui Farley poi formerà un duo abbastanza stabile dalla seconda metà degli anni 90 in poi, e con l'aiuto dell'ingegnere Hugo Nicholson e della cantante Anna Haig, in quegli anni formarono e fecero uscire un po' di singoli a nome Bocca Juniors, tra cui i primi ricordiamo Raise e Substance. Però adesso andiamoci ad ascoltare questo primo leggendario remix, perché Andrew Weatherall soprattutto poi è rimasto nella storia più che altro come remixer, come remixatore di lavori altrui, e questo è il suo primo remix appunto dei Saint-Étienne sul pezzo Only Love Can Break Your Heart. Questo è l'Andrew Weatherall A Mix in Two Halves remix del 1990 a Tonight Alive Radio Wombat. From his lyrical lips and smilingly orders, cease! When you were young. questo era la Mix in Two Halves remix di Andrew Weatherall su Only Love Can Break Your Heart di Saint-Étienne. E il prossimo pezzo che ci andremo a sentire è un pezzo degli alfieri della fattanza di Manchester, della Factory Records, del post-punk, dell'acid house. Stiamo parlando degli Happy Mondays, proprio una delle band simbolo della botta di quegli anni, direi. E una band formata, tra l'altro, le cui gesta sono state immortalate nel leggendario film sulla Factory, 24 Hour Party People, e direi che loro lo rappresentavano abbastanza bene. E appunto gli Happy Mondays si formarono nella metà degli anni 80. E sul finire degli anni 80 chiaramente non potevano che anche loro essere influenzati dalla nuova ondata acid house, e nel loro secondo album, appunto, mentre la band si qualifica anche scenograficamente nell'asse formato dalla debosha tossica di Sean Ryder e dal ballerino in spastiche contorsioni da MDMA Bats, i Mondays consumarono il loro crossover dance nel 1989, idealmente nel Manchester Rave On EP. E praticamente quando la traccia portante Alleluia viene remixata da una partnership mai più replicata tra Paul Oakenfold e Andrew Weatherall in un mostro da club a 110 bpm mandato nel Valhalla della fattanza da bordoni chiesastici, strappi da disco diva in rapimento e un sornione carrello di piano house italo hooliganiana, questo pezzo, questo remix è una pura devastazione da Ecstasy Night. E questi sono gli Happy Mondays con Alleluia nel loro Andrew Weatherall e Paul Oakenfold remix del 1989, ovviamente a Tonight Alive Radio Wombat. questi erano gli Happy Mondays con Hallelujah, remixati da Andrew Weatherall e Paul Oakenfold nel 1989. Nel 1992 Weatherall lascerà la Boyzone, che diventerà appunto Junior Boyzone, e formerà il trio fondamentale all'interno della musica dance dei Sabres of Paradise nel 1993. E aprirà anche un'etichetta sonora che si chiamerà Sabresonic, come una delle serate che andrà a portare in giro per i club di quegli anni. E quando nel 96, poi all'inizio del 96, farà finire la Sabresonic, Weatherall insieme a Keith Henningswood formeranno un altro act fondamentale all'interno della musica indie dance inglese, come quello dei Toulon Swordmen, che tra l'altro firmeranno subito con la benemerita Warp Records, etichetta assolutamente fondamentale di quegli anni. Ma adesso andiamo a sentire quest'altro storico e fondamentale remix di Andrew Weatherall del 1990, questa volta su Soon dei My Bloody Valentine. My Bloody Valentine, ovviamente gruppo fondamentale dell'indie inglese, il suo capoccia, mentore e genio assoluto Kevin Shields, già nel 1988 rimase folgorato dall'acid house, ma sarà solo con questo Soon del 1990 che faranno esplodere appunto l'acid house ancora di più all'interno delle loro fila musicali. Questo pezzo, tra l'altro, uscito nel Glider EP del 1990, è l'anticipo del loro album fondamentale del 1991, Loveless. E appunto, quando uscirà Soon nel 1990 come traccia portante del Glider EP, dentro l'EP c'è anche una full length version di Glider, che pur senza innesti dance è un lancinante spasimo di MDMA, 10 minuti di My Bloody Valentine perfezione, senza batteria, solo un isterico riff blues che avanza a raso terra, con gli acuti che si fanno canti di sirena e un gesto glorioso, estatico, martirio sonico, un vero monumento erotico alla musica di quegli anni e all'influenza dell'acid house. E questa è Soon nell'Andrew Weatherall remix dei My Bloody Valentine 1990, Tonight Alive, Radio Wombat. Here we go. Here we go. Questa era Soon, remixata da Andrew Weatherall dei My Bloody Valentine. E il prossimo pezzo sarà un pezzo che almeno mi farà introdurre l'altra mente dietro alla Boyzone insieme a Andrew Weatherall, l'altro geniaccio, l'altra mente dietro questa esplosione acid house insieme a Weatherall, ovvero Terry Farley. Terry Farley appunto era il sodale di Weatherall, erano si completavano uno con l'altro, anche se Farley appunto DJ e produttore anche lui come Weatherall, con uno stile probabilmente più improntato sul groove rispetto all'estetica arti di Weatherall, e comunque appunto prime mover dell'esplosione acid house inglese, gestendo insieme agli altri appunto la fanzine Junior Boyzone, e poi continuando da solo anche dopo la fuoriuscita di Weatherall, come abbiamo visto. Comunque hanno collaborato tantissimo, come abbiamo già detto, hanno suonato tantissime volte insieme in tutti i più grandi club londinesi, appunto allo Shum, al Trip, allo Spectrum. Hanno fatto tantissime serate in coppia, ma anche da soli. Infatti poi quando Weatherall seguirà la sua vena artistica con i Sabres of Paradise prima e con i Toulon Swordmen poi, anche appunto Terry Farley farà un sodalizio veramente duraturo all'inizio degli anni 90 con un altro DJ, Pete Heller, e i due insieme in coppia poi scriveranno delle bellissime pagine di musica dance degli anni 90, la coppia Heller and Farley, appunto storia della musica dance inglese. Si ricorda sicuramente la hit del 1992, il remix, lo Zurum Answer remix di Salomè degli U2, che la possiamo quasi considerare un titolo di coda della Summer of Love, appunto, in quel 1992. Anche lui, appunto, figura fondamentale per l'acid house e la scena musicale inglese di quegli anni. E ho scelto per voi come lavoro di Farley appunto uno dei remix fatti in coppia con Weatherall, a nome Junior Boyzone Remix, in questo caso dei Death Petrol Emotion con la loro Abandon, 1989, Tonight Alive, Radio Wombat. Questi erano i Death Patrol Emotion con Abandon nel Weatherall and Farley Junior Boys Own Remix del 1989. E un'altra enorme collusione tra acid house, indie rock e pop nel senso più ampio del termine si avrà quando Andrew Weatherall entrerà in contatto niente proprio di meno che con i Primal Scream. Infatti proprio da questo incontro nascerà quello che poi diventerà l'album di culto dei Primal Scream del 92, se non mi ricordo male, Screamadelica. Ma tutto iniziò nel 1989 quando i Primal Scream fecero uscire il loro secondo omonimo album, erano nel pieno periodo revisionistico, quell'album, quel Primal Scream venne veramente segato da tutta la stampa musicale inglese, tacciato appunto di revisionismo, ma Andrew Weatherall nella sua Boys Own fanzine scelse quel disco e lo inserì nella playlist annuale per la sua appunto Boys Own fanzine e da lì intanto quello fu il primo approccio. Poi all'inizio i Primal Scream non erano molto interessati su quello che stava accadendo in ambito dance lì in Inghilterra, ma Alan McGee della Creation gli fece subito il lavaggio del cervello e gli disse... E disse a Gillespie e compagni che quello che sentite nei club ora è più importante di Johnny Thunder. E allora i Primal Scream iniziarono a frequentare i club dell'acid house e il ghiaccio fu definitivamente rotto quando un Weatherall praticamente privo di esperienze produttive gli venne affidato il remix di I'm Losing More Than I'll Ever Done, una delle ballate del disco dei Primal Scream, e la precisa indicazione dei Primal sul remix da fare per Weatherall su quel pezzo fu proprio fucking destroy it, e Weatherall li prese letteralmente alla lettera e fece un remix epico appunto di I'm Losing More Than I'll Ever Done, e da lì iniziò l'amore tra Weatherall, Farley e i Primal Scream. E nel 1990 esce Loaded, che è il definitivo inno indie dance prodotto appunto da Weatherall e Farley per i Primal Scream. Quello stesso anno, in quel 1990, esce anche Come Together dei Primal Scream, sempre in questo caso prodotta da Terry Farley. E appunto, ma i due misero tantissimo mano nelle produzioni del gruppo di quegli anni, e nel 91 i Primal Scream seguirono l'house piena di Don't Fire It, Feel It, che era quasi come un Northern Soul in MDMA, con la voce della mancuniana Dennis Johnson. E poi l'approdo nella visionaria e celestiale Higher Than The Sun, autoritratto hippie punk sotto psichedelici di Gillespie, su una produzione dei grandissimi Orb. E a quel punto ormai era tutto pronto per la produzione di Screamadelica, e il resto è pura storia dei Primal Scream gettati in puro paradiso indie pop. Ma andiamoci a sentire questa Loaded, proprio presa come che è diventata proprio versione originale dei Primal Scream, prodotta appunto dalla coppia Weatherall e Terry Farley, del 1990. Primal Scream con Loaded, qui a Tonight Alive Radio Wombat. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Away, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Just what is it that you want to do? I'm gonna get deep down, deep down. I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey! E questa era Loaded dei Primal Scream, e con questa chiudiamo la lunga parentesi riguardante la Bowie Zone di Andrew Weatherall e Terry Farley. Continuiamo a sviscerare le influenze dell'acid house anche sugli altri gruppi della Terra d'Albione. E questa volta è il turno dei mitici Cabaret Voltaire, gruppo di musica elettronica sperimentale d'avanguardia originario di Sheffield, attivo fin dai primi anni 70. Cabaret Voltaire, da cui appunto il gruppo prende il nome, era appunto questo posto, questo luogo fondato a Zurigo nel 1916 dal regista teatrale Hugo Ball, con un gruppo di artisti tedeschi, che è stato appunto questo Cabaret Voltaire, la culla del movimento dadaista, veramente movimento di rottura e rinnovamento delle logiche artistiche tradizionali. E appunto con tutti quelli, con 60 anni dopo, questi ragazzi di Sheffield riportarono questa indole in Inghilterra, a Sheffield, e formarono appunto i Cabaret Voltaire, un gran mix di funk, di elettronica e di musica concreta che riportava direttamente al locale dadaistico di Zurigo. E il leader dei Cabaret Voltaire, Richard Kirk, rimase folgorato anche lui alla fine degli anni '80 dall'ondata acid house. E ricordiamo appunto che i Cabaret Voltaire, tra l'altro, erano scritturati sotto la mitica etichetta indipendente della Rough Trade. E appunto, per il loro disco del 1990, che contraddistingue la loro terza fase della carriera, il disco dal nome Groovy Layback Nasty, un album prodotto a Chicago, niente po' di meno che dal Godfather of House Music, ovvero Marshall Jefferson, che, se non lo conoscete, vi rimando direttamente a una vecchia puntata di Tonight Alive, su cui ho proprio sviscerato la vicenda artistica di questo leggendario, veramente, produttore di Chicago. E appunto i Cabaret Voltaire si faranno produrre da Marshall Jefferson questo album del 1990, Groovy Laid Back and Nasty. E Marshall Jefferson produrrà direttamente tre brani da quell'album, ma si porterà dietro in quel di Chicago appunto anche i suoi leggendari Ten Cities, che collaboreranno alle parti vocali di questo album del 1990. E appunto da questo album dei Cabaret Voltaire, prodotto da Marshall Jefferson, ci andremo ad ascoltare l'iniziale e assolutamente chicagoana, anzi un incrocio appunto tra l'house di Chicago e la freddezza dei suoni elettronici di Sheffield. Nascerà questa Searching del 1990, brano di apertura di Groovy Layback and Nasty, ovviamente a Tonight Alive Radio Wombat. Searching. You can't stop. Questi erano i Cabaret Voltaire con Searching, prodotta dal leggendario Marshall Jefferson nel 1990. E continuando a esplorare le influenze dell'acid house, arriviamo adesso a un gruppo di Birmingham, ovvero gli Electribe 101, che sono un gruppo che fondamentalmente sì, avevano iniziato appunto nel 90, sono un po' quasi la connessione con un altro genere, sottogenere della musica elettronica, dell'EBM, magari dell'electronic body music, soprattutto forse grazie alla cantante tedesca trapiantata in Inghilterra, Billy Ray Martin, che era un po' come se fosse stata una Marlene Dietrich in MDMA, e il loro pezzo leggendario, direi, del 1990 è Electribal Memories. E un pezzo che veramente ha fatto la storia nei club acid house. Me la vorrei far sentire, però dura più di 10 minuti e già stiamo andando lunghissimi. Ancora c'è un po' di pezzi da farvi sentire, quindi andatevela a recuperare se siete interessati, perché questa Electribal Memories è proprio un punto cardine della Summer of Love, del post Summer of Love dell'88, ma appunto di Billy Ray Martin e dell'Electribe 101. Adesso ci andremo a sentire un loro singolo del 1990, anche perché poi dopo questo Electribal Memories non hanno più prodotto nessun album, anche se si sa che l'album successivo era già pronto, ma nel 92 si sciolsero. Comunque ce la fecero a produrre anche un'altra manciata di singoli prima dello scioglimento, e infatti adesso ci andremo a sentire questo singolo del 1990 degli Electribe 101 con Billy Ray Martin alla voce, You Are Walking, Acid House, su Radio Wombat, Tonight Alive. E questi erano gli Electribe 101 con You Are Walking, con Billy Ray Martin alla voce. E adesso andiamoci a sviscerare un altro filone dell'acid house, e ovviamente il lato più dance, come già detto nella puntata precedente, era pesantemente influenzato dalla rivoluzione wild pitch chicagoana attuata dai Future di DJ Pierre, Spanky Spank, con questo nuovo preset della bassliner TB03 che appunto in questo nuovo settaggio prende il nome di acid, questo suono che riconoscerete subito appena lo sentirete. E uno dei gruppi cardine e tra i primi sicuramente in Inghilterra ad abbracciare il wild pitch di DJ Pierre sono stati i seminali 808 State, 808 ovviamente in onore della drum machine 808, e erano un ensemble di Manchester che gravitava intorno alla figura del musicista fusion e post-wave Graham Massey, ex Biting Tongues, nella prima fase spalleggiato da Martin Price, proprietario a Manchester del negozio di dischi Eastern Block, e da Gerald Simpson. Fulmineranno il 1988 con l'album di debutto New Built, Acid House Chicago Style, con una sciamanica e vena funk britannica e nordica insieme, un disco veramente radicale per quei tempi, differente dalla sintesi pop che la Summer of Love inglese opererà sui suoni americani. Gerald Simpson, dopo il fondamentale appunto New Built, abbandonerà la formazione e andrà da solo con il nome di A Guy Called Gerald. La line-up degli 808 State sarà integrata dai DJ Andy Barker e Darren Parrington. Nel 1989 uscirà il fondamentale Quadra State EP che contiene il capolavoro assoluto Pacific State, dove Massey mette a frutto il suo retroterra fusion suonando un'evocativa parte di sax e indirizzando un groove che ha nella stratificazione delle più evolute tracce di Detroit Techno verso un idillio ibizenco con punteggiature di gabbiani. Pezzo che remixeranno in decine e decine di versioni, lo remixerà e lo reinterpreterà veramente chiunque, anche il maiale come si suol dire, e finisce nello stesso anno come Pacific 202 nell'album 90. E poi la loro ascesa continuerà anche con l'album del 91 Excel, crossover perfetto dove l'elettronica e la fusion sono spinte in un nuovo livello e dove spiccano i pezzi cantati da Bernard Sumner dei New Order e da Bjork. E ovviamente i New Order sono una band cardine del post-punk tutto e dell'acid house, ma appunto anche di loro, avendo già fatto un'intera puntata monografica dedicata a loro, ho pensato di non inserirveli stasera, ma invece gli 808 State per forza ve li devo far sentire. E loro, gli 808 State, pur da un'alterità elettronica in un percorso che poi andrà in tandem con le suggestioni 88ine di un club come l'Azienda di Manchester, incarneranno alla perfezione lo spirito e la creatività di questa seconda Summer of Love del 1988. E allora andiamoci a sentire questo pezzo fondamentale di quest'epoca, in questo caso del 1989, che è Pacific State degli 808 State, ovviamente a Tonight Alive Radio Wombat. Thank you. E questa era Pacific State degli 808 State. E dopo l'esperienza appunto con gli 808 State nella pietra miliare dell'acid non americana New Built, Gerald Simpson nel 1988 va solista e incendia l'immaginazione collettiva con il singolo Voodoo Ray, inno istantaneo della Summer of Love, beats su un caracollante scarno vibe latino come una samba da cantina, bassline chiusa, voce femminile che rimanda a richiami da sirena, vero e proprio mantra underground punteggiato da una seconda voce maschile che ripete a scansioni secche il titolo, in origine un Voodoo Rage dallo sketch Bo Dudley dal disco Derek and Clive Live di Dudley Moore e Peter Cook, ma il campionatore si dice non avesse più spazio nella memoria e allora il passaggio venne ristretto in un provvidenziale Voodoo Ray. Acid House oltre l'Acid House, non c'è enfasi sui fraseggi di 303, ma c'è quel feeling psichedelico e sensuale di quel nuovo linguaggio, cosa magnificata sempre nel 1988 nell'album d'esordio di Simpson, appunto come Guy Caller-Gerald, ovvero Hot Lemonade, con il suo suono effervescente, cangiante come di strani fiori acid in guizzanti correnti latine, febbrili echi tra Chicago e Detroit, stelle di pause e sogni soul. E questa è Voodoo Ray di Guy Caller-Gerald, 1988, un autentico inno dell'estate del 1988. E questa era Voodoo Ray di A Guy Called Gerald, in altro autentico inno di quell'estate dell'amore tra 88 e 89. E il prossimo al Fiere Acid in Terra d'Albione è Baby Ford, che appunto su etichetta Rhythm King, che era una sub-label della Independent Mute, tra l'altro compagno di etichetta di altri act come S-Express, Bomb the Bass, Beatmaster, Betty Boo, e appunto Baby Ford, il cui vero nome è tuttora Peter Edshed, fa nell'88 e nell'89 due album fondamentali per il suono acid inglese. Il primo è Four Tracks del 1988 ed è, insieme a New Build degli 88 State, la prima interpretazione non solo credibile ma entusiasmante dei suoni acid americani in terra d'Albione. E il disco contiene la stroboscopica Uchi Kuchi come palpitante ridefinizione dell'acid house, appunto chicagoana, reinterpretata in Terra d'Albione. E poi nell'89 l'altro album fondamentale, Who the World of Baby Ford. E appunto dal suo primo album dell'88 ci andremo ad ascoltare la sua famosa Uchi Kuchi, proprio brano simbolo dell'acid inglese, anzi dell'acid chicagoano, portato in Inghilterra appunto da Baby Ford, 1988. E questa era Uchi Kuchi di Baby Ford. E con questa abbiamo chiuso anche la parentesi acid della puntata Acid House di stasera e passiamo a un altro gruppo che, come già precedentemente sentiti, Happy Mondays, in fatto di rimbollamento, come si dice, non erano secondi a nessuno, e stiamo parlando degli dei The Shaman, che non erano nient'altro che Colin Angus e Will Sin, che erano due ex infermieri psichiatrici scozzesi che nel 1987 si ritrovarono sul luogo del delitto. Dopo un biennio 85-87 gestito da Colin con un'altra line-up di indie rock retro psichedelico che sfocia nell'album Drop, l'unione con Will Sin mostra la nuova direzione del gruppo nel singolo Nature of a Girl. Hip Hop Beats è una canzone psichedelica conturbante, e nel 1988 Colin e Will lasceranno la Scozia e si immergono nella nuova vita notturna della capitale inglese, tra le serate dello Shum e dello Spectrum. La parola d'ordine era ovviamente Acid House. Per i vecchi componenti della band è il momento di lasciare, non capiscono più la direzione della band, infatti per loro è solo musica disco. E invece di taglio politico, l'invettiva anti-americana del nuovo singolo Jesus Loves America, con la sua fusione di hip hop beats e chitarre. Siamo nel 1988 ed è il primo anticipo del nuovo album, che appunto uscirà nel 1989 su Demon e si chiamerà In Gorbachev We Trust. E sono i giorni dell'ecstasy attraversati da un sentire già forgiato dall'LSD per i due, che creano un perfetto spartiacque tra quel nuovo dialetto extrasensoriale e del passato del rock. Insieme a DJ come Eddie Evil Richards, Mixmaster Morris e Paul Oakenfold, e insieme ad act come i leggendari Orbital, metteranno in piedi il Synergy Tour che durerà circa un paio d'anni tra l'89 e il 91, uno show psichedelico di fusione tra rock e lo scibile della dance. Arruolato in questo contesto il mitico Mr. C, conosciuto anche come Richard West, che era un prime mover della scena londinese e con qualche esperienza da MC messa a frutto con la band, appunto degli Shaman, nel singolo che sarà un ariete che introduce in maniera scioccante il nuovo album Progen. E quest'album è veramente un album trionfale, un successo incredibile della tarda era dell'Acid House. Appunto è il maggio del 1991 e questo album degli Shaman Progen, tra l'altro con grandissimi ospiti tra i collaboratori come William Orbit, come appunto il già citato Mixmaster Morris, sarà un successo incredibile che farà letteralmente decollare la band in quegli anni. E appunto per continuare a sfruttare in pieno il potenziale commerciale dell'album, ripubblicheranno in una versione remix del 91, che poi ripubblicheranno tra l'altro in una versione remix del 91 tutto l'intero album con un titolo riconoscibile come Move Any Mountains, e partirono per le Canarie per girare il video del singolo dell'album di quest'album remixato appunto. Ma finite le riprese, Will Sin è in piena botta da MDMA liquida e si allontana impudentemente dalle coste di Gomera, che è vicino, un'isoletta vicino a Tenerife, e le onde lo risucchieranno e non ritornerà più indietro. E a quel punto la storia degli Shaman, anche se non finirà, perché appunto Colin continuerà a portarla, Colin Angus continuerà a portarla avanti, ma senza appunto il contributo fondamentale di Wilson sarà tutto un discendere. E appunto andiamoci a sentire dall'album del 1989 in Gorbachev We Trust la mitica Synergy, The Shaman, qui a Radio Wombat Tonight Alive. MDMA. E questa era Synergy dei The Shaman del 1989, MD Amazing, We Are Together in Ecstasy, un pezzo bellissimo. Cioè, gli Shaman qui da noi in Italia forse non sono molto conosciuti, sono un fenomeno molto abbastanza circoscritto nella terra d'Albione, che io sappia, però hanno scritto, secondo me, delle belle pagine di dance di quegli anni, un suono molto particolare e caratteristico. E siamo giunti, a questo punto giunti, come si dice, siamo giunti all'ultimo pezzo, che è un po' la chiusura del cerchio, ecco. Mi piaceva chiudere con questo pezzo, me lo sono tenuto proprio come ultimo, e magari il pezzo originale non vi dirà un granché. Infatti stiamo parlando delle We Papa Girl Rappers, questo teenage duo pop rap femminile abbastanza, insomma, abbastanza costruito, diciamo, niente di che, anche se il loro album The Beat, The Rhyme and The Noise dell'88 vanta delle collaborazioni di pezzi da 90 come di Adonis, appunto una figura leggendaria di Chicago, e di Kevin Sanderson, che, e tra l'altro, appunto, di Kevin Sanderson è questo leggendario remix delle We Papa Girl Rappers, Hit It Up. E volevo chiudere proprio con questo, perché appunto Hit It Up remixato da Kevin Sanderson è stato uno dei pezzi cardine di quelle estati post Summer of Love, e nelle serate, insomma, era un pezzo che ci stava veramente alla grande. Poi, insomma, Kevin Sanderson è un mito, cioè un'autentica leggenda vivente. Ovviamente non avevo il singolo del 1988, però fortunatamente questa Hit It Up delle We Papa Girl Rappers remixata da Kevin Sanderson è ricomparsa in una raccolta, una bellissima raccolta di lavori di Kevin Sanderson, doppia History Elevate, e appunto questa Hit It Up l'ho recuperata proprio da lì. E con questo è l'ultimo pezzo della scaletta di stasera, e risentiamoci appunto dopo questo Kevin Sanderson per i rituali saluti. It's like that, yeah. It's like that, so hit it up. It's like that. It's like, it's like, it's like, it's like, it's like that. It's like, it's like, it's like, it's like, it's like that. It's like, it's like, it's like, it's like, it's like that. It's like, it's like, it's like, it's like that. It's like, it's like, it's like, it's like that. It's like, it's like, it's like, it's like, it's like that. It's like, it's like, it's like, it's like, it's like, it's like, it's like, it's like, it's like, it's like, it's like, it's like, it's like that. It's like that. Yeah, it's like that. It's like that. Yeah, it's like that. It's like that. Yeah, it's like that. It's like that. Yeah, it's like that. It's like that. Yeah, it's like that. It's like that. Yeah. while my rap is just playing up and up. I'm never gonna stop. Drop the bass, speed up while the DJ cuts. The rhyme and beat is flowing. 2 weeks after girl rappers are knowing 20,000 times a mix. It's never too much. You can't drop it acid, then you've been out of touch. Suckers, rough, rugged is our rhymes that comply. It's the one and only, only one MCTY. Oh, we pop a girl rappers into track in the house. 20,000 tons is just let out. Like that. pezzo veramente leggendario, questo Kevin Sanderson remix delle We Papa Girls Rappers con Hit It Up 1988, e questo era l'ultimo pezzo della selezione di stasera, e i doverosi crediti per queste due puntate su Acid House. Mi sono basato tantissimo, ho attinto a piene mani su da un libro secondo me fondamentale per conoscere appunto questa musica, ovvero Smile del mitico Christian Zingales, su Tattole Edizioni, Cesare quel che è di Cesare, senza di te Christian tantissime puntate non le avrei potute fare, e sicuramente non avrei conosciuto tonnellate e tonnellate di musica che mi hai fatto scoprire, grazie mille. E quindi vi lascio al set scelto, in questo caso un set, non un concerto, scelto come finale live di Tonight Alive di stasera, e non poteva che essere un DJ set del mitico Andrew Weatherall, in questo caso chiaramente alla Hacienda di Manchester, nel un live del luglio del 1993, un set veramente acid, senza prigionieri, tutti colpiti, un set della Madonna da una leggenda come Andrew Weatherall. E a questo punto non posso che ricordarvi il prossimo appuntamento in diretta di Radio Wombat domani, domenica pomeriggio, con La Fuga del Gatto, con Bloody Mary e La Virgi, che come sempre allieteranno le nostre domeniche pomeriggio di ripresa con la loro fantastica musica classica su Radio Wombat. Allora non vi posso che salutare, e per me personalmente vi ridò appuntamento a sabato prossimo con una nuova puntata di Basement Records, chissà, forse con un ospite speciale. Un abbraccio e un buon sabato sera a tutti qui dalle frequenze di Radio Wombat Firenze. Wombat! Wombat! Radio Wombat! All we hear is Radio Wombat! Radio Wombat!